Ce l'abbiamo fatta. Guarda, sono emozionatissima. Si è creata un'aspettativa dietro questa intervista che veramente non sto più nella pelle. Allora, per prima cosa ricordiamo il numero 333 180 94 94, che è il numero della radio, non quello di Scarda. Poi per seconda cosa, preambolo, abbiamo, questa è la terza volta che proviamo a fare la telefonica con Scarda. Per due volte è andata male. Una volta per colpa nostra, diciamolo, perché non siamo andati in onda. E quindi l'altra per colpa sua. Non ci aveva risposto. Quindi Nico, per colpa tua. Oppure diamo la colpa alle compagnie telefoniche. Ah sì, è sempre colpa delle compagnie telefoniche. Ecco. Sono d'accordo. Diciamo che allora, questo programma, no? Come esistono le cose cruelty free, eh? Questo programma è senza colpa, cioè è libero dalle colpe. È guilty free. Perfetto, è libero da queste cose, nessuno ha colpa, gli inconvenienti succedono. Però siamo molto molto contenti di dire bentornato a Scarda. Ciao Scarda. Ciao. Ciao ragazzi, come va? Noi stiamo bene, bene. Anche se siamo un po' in clima da ultimo giorno di scuola, quindi esatto. Siamo un po' svogliati, siamo un po' con la testa per aria. Tu come stai? Io bene, ho fatto la neve a Bologna, o mi sbaglio? Sì, siamo belli imbiancati al momento. Ok. Tu invece sei sempre a Roma? Sì, sono a Roma, fa freddo, però la neve non c'è, okay. Fortunatamente al momento non c'è neve. Pensate che con Scarda eravamo partiti per parlare di un brano, ma siccome l'abbiamo rimandata una volta, l'abbiamo rimandata un'altra volta, nel frattempo è uscito un altro brano ancora. È uscito un disco intero nel frattempo. Esatto, è uscito un disco nel frattempo. Perché noi siamo partiti da Non Relazione, ma adesso siamo arrivati a Palazzina Gialla, e quindi, vabbè, però ci fa piacere che appunto che tu sia così produttivo. Appena ti molliamo 20 giorni, dobbiamo rifare praticamente tutta quanta l'intervista che avevamo preparato. Se mi chiamavate fra 20 giorni, in realtà c'era la stessa roba. Okay. Abbiamo beccato proprio il momento cruciale. Esatto. Vabbè, esatto. Perché a Natale si va in pausa, è per questo, è normale. Sì. Che poi noi in realtà non è che le prepariamo le interviste, noi facciamo tutto quanto così sul momento, non siamo così professionali da preparare le interviste. Per esempio, sulla tua scheda, Scarda, c'è un appunto, no? Noi ogni tanto mettiamo degli appunti sotto i nomi, sotto i nomi degli artisti, e sotto il tuo nome c'è un unico appunto in caps lock con tre punti esclamativi ed è Tifa Juve. Cioè abbiamo segnato questa. L'ha scritto Andrea, ovviamente. Ma è una cosa che è uscita negli ultimi giorni, perché me l'ha chiesto un altro vostro collega di un'altra testata, sì? E quindi ultimamente è uscita questa notizia, però io non l'avevo mai messo nella mia bio, non è una cosa che di solito dico nelle interviste, meglio non farsi nemici a livello calcistico, ecco, perché poi i tifosi sono anche ascoltatori. Però guarda, qui in questo momento ne hai uno dalla tua parte. Sì. Non hai nessuno contro. I tifosi sono anche ascoltatori, ma alcuni tifosi sono anche conduttori di programmi radiofonici. E quindi se tu ti fai amico questi qua, poi questi ti passano sempre i pezzi, cioè pensaci anche a questo risvolto. Poi noi adesso potremmo fare tipo una puntata intera dedicata a Scarda parlando della Juve, cioè capito? Se vuoi io adesso ti do un'ora di tempo per parlare non del disco ma solo della Juve. Comunque guarda, ma anche no, chiudiamo subito l'argomento. Qual è il tuo pensiero sul sorteggio che ci ha messi davanti all'Atletico Madrid? Abbiamo preso la squadra, effettivamente quella che era più carogna, quella che diciamo era quella più, la squadra peggiore che potessimo prendere nel sorteggio. Come dire, però in teoria, essendo noi teste di serie, dovremmo superare l'ostacolo, però vediamo, visto quello che è successo con lo Young Boys, insomma, esatto. Non è detto che esatto. Io infatti ti direi che siamo teste di serie, speriamo di non essere teste di qualcos'altro. Gardini, lascio invece a te una domanda sul disco, sulla musica di Scarda, sulla vita privata di Scarda. Sulla vita privata, sì. Com'è andata la data al Covo che hai fatto il mese scorso a Bologna? è andata molto bene, soprattutto alla luce del fatto che quella sera a Bologna c'era di tutto, perché c'era il concerto degli Editors che mi ha fregato qualcuno, e poi c'era Cremonini al palazzetto. Nonostante ci è andata molto molto molto bene, quindi in realtà ringrazio solo per come è andata. In questo girone con Scarda, Cremonini e gli Editors, chi era la testa di serie? Mi sa Cremonini. dato il campo di gioco. Esatto, giocava anche in casa Cremonini. Esatto. No, tutto in apertura c'erano i Siki quella sera, giusto? Sì, sì, mi sì, sto sì, confondendo. Sì, sì. Ok, ok. Sì, quindi sei rimasto contento della data bolognese. Assolutamente sì. No, ho fatto, insomma, il covo era bello bello pieno. Se non ci credete, guardate Instagram. No, ti crediamo. abbiamo visto, sì, sì. Quindi no, c'è stato anche un grande affetto, come dire, quando il pubblico sta lì che è bello preso dal concerto, quando canta e quando, insomma, quando quell'ora passa velocemente perché sì, ci si diverte, allora ecco, sono sempre, torni a casa poi soddisfatto. Io guarda, ti dico una cosa un po' personale, ma spero possa farti piacere. Qualche settimana fa circa ero un po' preso male. È presente Gardini, che ogni tanto mi prendo male, sì. Sono un po' triste ed ero lì in autobus, sai, avete presente tutti quanti, Scarda, la Gardini, ma anche gli ascoltatori, quella malinconia da autobus che tu sei lì, guardi il mondo passare, guardi le lucine di sera con le cuffiette, sì, e ascoltavo Smetto quando voglio quella sera lì e mi dava, sai, mi crogiolavo nella mia tristezza. Ti ha dato conforto. Sì, mi ha dato molto conforto Scarda. No, infatti sì, dovrei proprio consigliare l'ascolto delle mie canzoni sull'autobus quando è brutto tempo e quando sei in periferia, perché playlist autobus. Sì, è una playlist degli autobus. Lì, me l'ascoltavo, proprio, essendo un po' triste, però anche molto concentrato, ho ascoltato bene il testo e ho detto, cavolo, anch'io mi sento sempre così, con questo devo fare, e invece ogni tanto vorrei solo essere accettato per come sono, vorrei qualcuno che mi dicesse ti voglio bene così per come sei e non ti odio per come sei fatto. Devo dire che questa cosa, come te, molti mi dicono che in effetti mi ascoltano la musica mia quando vogliono stare male, non quando vogliono stare okay, bene. Okay. Beh, io stavo già male prima di ascoltare sì, sì, quindi, la tua musica. Prossimo step per il suicidio. No, dai. Guarda, la tua canzone mi ha fatto sentire capito, Scarda. Ecco. Ah, ecco, e questo poi mi dicono che ti senti male, ma poi ti senti bene. Così. C'è della comprensione nelle parole esatto, di Scarda. È un cantautorato empatico, mi hanno detto. Ma hai fatto studi di psicologia, qualcosa del genere? No, ho studiato giurisprudenza, ho anche preso la laurea, però non ci ho mai fatto niente con questa laurea, l'ho appesa, però... Valuta magari una triennale in psicologia o qualcosa del genere. Va bene. Scarda, noi ti salutiamo, siamo molto molto contenti di avercela fatta finalmente a sentirti. Sì. Anche io a questo punto io valuterò la vostra proposta, perché adesso voglio fare la tesi sul cantautorato empatico. Pensaci, assolutamente sì. Questo percorso di psicologia. Pensaci. Scarda, buon Natale. Grazie, auguri. Buon Natale anche a voi. Grazie. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.